Sacchetteldis, del nostro Alino, lui fa la radio, la fa per Benino. Ogni mattina, qua leva il sul, arriva il Bonetti e gli picchia d'intel, pule pule pule pu, fa il tacchino. Qua qua qua qua l'occhetta. Cif ciaf cif ciaf l'imbianchino, e di noi che cosa sarà? Uno, nessuno, 100.000 di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Devo dire che questo ascoltatore ha... Pule può fa il tacchino, qua qua qua qua l'occhetta, ci ci ci ci fa il pulcino, e di noi che cosa sa? Che poi era il pulcino, non l'imbianchino, dice l'imbianchino l'ascoltatore, ho capito male. No, prestazione canora ottima del nostro ascoltatore, certo la versione che arriva al Bonetti è... E quel che succede dopo, come... come... Vabbè, tanto che arrivi il Bonetti, cioè il Manera. Siamo qui, cari ascoltatori, alle 9-7 minuti con tantissime tematiche da affrontare oggi. Oggi ho talmente tante cose da dire che non so come fare. C'ho qui 45 fogli accatastati uno sopra l'altro. Tutto di fretta, e non ho messo ordine come sempre nella mia vita, e quindi andrò un po' a spizzichi e bocconi qua e là, e cercherò di farcela. Cerca di seguirmi Alpino in regia, perché sono molto confuso nei pensieri oggi, salterò da una parte all'altra. Siamo in onda dagli studi di Radio 24 a Milano con Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti ed Elisabetta Fusconi in redazione, e con voi, cari ascoltatori. Oh Milan, hai anche tu WhatsApp? Sì, certo, ce l'abbiamo. 349-238-6666. Questo è il numero per i vostri WhatsApp, lo sapete. 800 24 00 24. Oggi non parleremo solo di coronavirus, parleremo anche di calcio non giocato, parleremo di scuola, parleremo anche di coronavirus, ovviamente, anche perché ragazzi, io mi sono svegliato, io non amo citare me stesso, i miei libri, chi mi conosce lo sa, non lo faccio mai, però oggi mi sono svegliato, ho letto il titolo di Repubblica e ho detto mo che faccio. Enthusiasm about the future. Mo che faccio? Cioè, la Repubblica titola "Salutarsi da lontano senza baci". Senza baci, niente baci. Cioè, io ho scritto, il mio ultimo libro si intitola 2 milioni di baci. Mo che faccio? Cioè, mi mando al macero tutte le copie. Basta, bruciamo tutto. No, i libri non si bruciano. 2 milioni di baci. Ho chiamato subito il mio editor Stefano Izzo, gli ho detto: ma sei da linciare, voglio dire, un titolo di questi tempi. 2 milioni di baci. E vabbè, insomma. Se mi suggerite un nuovo titolo, ristampiamo. Qualcuno mi ha già suggerito "A 2 metri dai baci". Non lo so. Comunque, al di là delle battute, io ieri ho notato in varie trasmissioni infettivologi, medici, poco fa ho sentito anche il professor Galli del Sacco, da Simone Spezia e Maria Latella, e cauti, il comitato scientifico a Palazzo Chigi ha detto c'è preoccupazione. Non vuol dire che adesso dovete ritornare a fare la spesa ai supermercati di corsa. Preoccupazione vuol dire i prossimi giorni saranno davvero decisivi. Si sta pensando di allargare a una nuova zona rossa, se ho capito bene, nel Bergamasco, dove ci sono dei casi da tenere sotto controllo. I numeri, io vi invito, i numeri e la scienza. Ecco, io da anni dico bisogna seguire la scienza, adesso a maggior ragione seguiamo la scienza. Io non vorrei più vedere giornalisti che parlano del coronavirus nei dibattiti televisivi, ognuno che dice delle cose che non sa ma che riporta perché le ha lette. Basta, non andate a parlare in TV. Se vi dicono da Floris, da Berlinguer, cito i due programmi, da Mario Giordano, venga a parlare di coronavirus i politici, no, non andate, dite io Io ieri ho visto Mirta Merlino, per esempio, che stimo, era da Floris e parla di Mirta Merlino. Di no, guarda, Floris, io di coronavirus non ne so nulla, perché credo che non ne sappia nulla come me. Fate parlare gli scienziati, i medici, gli infettivologi, coloro che sanno i numeri. Ma che cavolo ci andate a parlare del coronavirus? Perché? Che siete esperti? Io, se mi chiama un autore televisivo e dice vieni parliamo del coronavirus, io posso dirti cosa faccio coi figli, tutt'al più. Basta, niente di più. Infatti Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, lo dice, ascoltiamo la scienza, gli scienziati. La serietà, la sobrietà per più di una settimana, ciao, facciamo. Siamo proprio geneticamente predisposti a fare ammuina sempre. Vabbè. No, mettiamoci d'accordo, chiudiamo, apriamo. La verità è che bisogna fare persone serie. Si chiude o si apre sulla base delle valutazioni medico-scientifiche e delle segnalazioni che ci dà la componente scientifica. Punto. Punto. Punto. Punto. Infatti poco fa Galli ha detto a domanda precisa di Simone Spezia, ma è possibile che riaprano le scuole? Dice, non è una decisione che spetta certamente a Galli, si vedrà col tempo, il sabato, ma sulla base di questi numeri e visto che forse si allarga una nuova zona rossa, dice, sembra un po' strano che si possa tornare presto così da lunedì a una normalità. Quindi se gli scienziati, gli infettivologi dicono non stringetevi la mano, ma non stringetevi la mano e basta, state a un metro, anzi si è scoperto che la vera distanza è 1,80 m, il manerometro 1,82 m, usiamo Manera che è 1,81 m, noi lo mettiamo in orizzontale nelle occasioni pubbliche e facciamo così il manerometro, e 1,82 m, state a 1,82 m, ma che dovete fare? Poi ci sono le proposte, ieri l'ha lanciata Maurizio Belpietro, compriamo italiano, ieri Paola Taverna ha rilanciato con l'hashtag acquista italiano, c'è questa idea, acquistare italiano, non si sa bene che cosa voglia dire, e infatti oggi Mattia Feltri in prima pagina della Stampa, sapete, gliel'ho detto, so anche che mi ha risposto, gli ho detto che sono pronto a un matrimonio omosessuale con Mattia Feltri, lui mi ha anche gentilmente risposto dicendo devo prima dirlo ad Annalena, a sua moglie, vabbè, io attendo insomma poi per le pubblicazioni. Mattia Feltri dice oggi in prima pagina sulla Stampa al Buongiorno, comprare prodotti italiani per risollevarci da soli in latitanza dell'Europa dal dissesto del coronavirus. Ricorda quell'altro fulmine di Salvini, sciopero della Nutella perché è preparata con nocciole turche. Ecco, la dottrina Taverna. Quindi dobbiamo rifornirci di olio italiano, poi magari le olive le abbiamo importate dalla Tunisia, ma sono dettagli. O comunque niente Würstel e più mortadella, sebbene probabilmente abbiano usato maiali polacchi o ungheresi. Taverna ignora che se acquista un Chianti è facile che la bottiglia sia stata fabbricata nell'Illinois e il turacciolo di sughero in Portogallo. Poi certo la Coca-Cola americana, ma è imbottigliata a Catania, Verona, da operai italiani, vogliamo forse licenziarli? Ok, niente Nike, ai piedi scarpe italiane confezionate nel 95% dei casi con pelli provenienti da Australia, Nuova Zelanda, Brasile. E mi raccomando, solo camiceria italiana tessuta col cotone cinese. Insomma, non ci resta che affidarci alle pere del Veneto, magari contenute in vaschette di polistirolo lituane, avvolte in pellicola tedesca, distribuite da trasportatori rumeni in supermercati di proprietà francese e pagate a un cassiere vietnamita. Insomma, purtroppo qui al 100% made in Italy ci sono soltanto alcuni cervelli. Vabbè, compriamo italiano? Chi lo sa? Chi lo sa? Di fatto, ragazzi, il coronavirus dà di testa a molti. Tra poco leggeremo un messaggio che gira su Facebook. È stato per la verità cancellato da... No, lo voglio leggere subito, poi dopo, perché voglio... Allora, il messaggio, ringrazio Daniela Ranieri, che ieri su Twitter lo rilanciava, poi è stato cancellato dall'autore che non dirò per carità di patria, a proposito di patria. Il messaggio comunque è di un dirigente importante di una società che si occupa nel mondo dello spettacolo, diciamo di diritti. Vai a trovarlo, però vedi che sono disordinato. Eccolo qua. Allora, ci sono molti concerti cancellati, molti spettacoli cancellati. Allora, questo signore ha preso carta e penna ideale su Facebook e ha vergato queste singolari parole. A proposito del coronavirus e del suo impatto sulle attività lavorative di ognuno di noi, ripeto, mondo dello spettacolo, vorrei cercare di essere diplomatico e non manifestare il mio pensiero in modo troppo netto. Oh, dice, una bella premessa, allora sarà gentile. E poi scrive di seguito, per questo desidero sommessamente esprimere il mio più totale, violento, profondo disprezzo umano e professionale a ogni singolo, singola, codardo, codarda, tremante che a causa di una patetica influenza mediatica cambia i suoi piani lavorativi e i suoi impegni professionali e smette, piagnucolando come un fantoccio merdoso, di fare quello che avrebbe dovuto fare. Volevo pacatamente ricordarvi che ci sarebbero tanti altri modi di dimostrare e confermare che siete dei miserabili pusillanimi inferiori e disgustosi. Non sarebbe certo una tragedia se un virus vi estinguesse. Peccato che insieme agli evidenti vantaggi della vostra dipartita, alcuni milioni di persone serie e responsabili si troverebbero a gestire le rovine lasciate dalla vostra meschina mancanza di dignità e buonsenso. Quindi andate a lavorare e smettetela di rompere i coglioni. Grazie. Firmato, non lo dico perché mi ha cancellato tutto. Mondo dello spettacolo, è arrivato Manera. Hai la faccia come il culo. È partito un premio Giachetti, non lo so perché. Ogni tanto partono dei premi Giachetti. Signori, ieri vi abbiamo raccontato la storia del mondo della scuola dove in un istituto di mezzo lombardo, vicino a Trento, nel tentativo di fare quello che viene chiamato e-learning, cioè lezioni a distanza, il sindacato della UIL, Scuola Rua Trentino, Alto Adige, Sud Tirol, si è opposto dicendo non si può fare così di colpo. Saluto Pietro Di Fiore, buongiorno, segretario generale appunto della sigla che ho citato. Buongiorno Di Fiore. Buongiorno a lei e buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, le sottopongo le parole del ministro all'istruzione Lucia Azzolina su Repubblica, intervistata oggi da Annalisa Cuzzocrea, dice non ci sarà il 6 politico e soprattutto ha detto ma lo sa che ieri in una classe del Majorana di Brindisi hanno fatto chimica in collegamento con le zone di Codogno e Voeuganeo? Insomma, questo è il futuro. Pietro Di Fiore, è vero che le ha mandato una lettera alla dirigente scolastica dell'istituto dicendo no, non si può fare in base a tutta una serie di commi, articoli snocciolati ieri da Gian Antonio Stella, non si può fare le lezioni a distanza? È una parziale verità, nel senso che io ho scritto una lettera, ho fatto scrivere una lettera non tanto sul fatto che non si possano e non si debbano fare attività a distanza, ma che questa debba essere attentamente programmata, attentamente costruita, deve passare dagli organi collegiali, è una scelta insomma di insegnamento. Sì, e ricordo nessuno sapeva che sarebbe arrivato questo coronavirus, non ci ha bussato, non ci ha mandato una raccomandata, ecco, me lo faccia dire con ironia. Ma certo, l'ironia è accolta come... però ecco, il coronavirus non è che può impedirci o può non rispettare, come dire, le regole della democrazia, della partecipazione, della collegialità. Sì, ci sono i contratti, sono i contratti, ci sono le regole, sì. Ci sono le emergenze anche, no? Cioè che guardi, tra l'altro io so che gentilmente, siccome so che volete confrontarvi, saluto la dirigente scolastica in questione, Tiziana Rossi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Istituto Omnicomprensivo Martino Martini di Mezzo Lombardo. Erano tutti pronti, cioè questa cosa, adesso ce lo dirà Tiziana Rossi, ha creato un po' di problematiche, insomma, cioè il riferirsi alla normativa stringente proprio in un momento di estrema necessità. Di Fiore, non è stato, come dire, un po' da azzeccagarbugli, ecco. Ma no, guardi, perché nel contempo proprio noi abbiamo chiesto all'assessore, al dipartimento, di aprire immediatamente un tavolo e di trattare, proprio di vedere come condividere vie straordinarie dell'emergenza per rispondere all'emergenza qualora le scuole avessero o dovessero veramente continuare in termini di chiusura o di come dire, non regolare svolgimento delle attività didattiche. Sì. Non so, preside Rossi, io vi chiamo preside, lo dico a tutti i dirigenti scolastici, mi piace così, mi viene più comodo. Va benissimo così. Preside, insomma, ci vuole spiegare, eravate tutti pronti ed è arrivata ed è piombata questa lettera di Pietro Di Fiore che vi ha creato problemi o si è un po' esagerato nel rappresentarla così? Allora, guardi, io faccio una premessa. È chiaro che erogare lezioni a distanza non si improvvisa, no, da un giorno all'altro. Sì. Ed è evidente che nel nostro sistema paese le scuole hanno, nelle varie province, insomma, rispetto all'offerta formativa, rispetto alla storia che hanno e alle strutture che hanno e alla formazione che hanno fatto, hanno velocità diverse, hanno capacità di reazione diversa a una situazione assolutamente emergenziale quale questa. Non avrei mai potuto improvvisare da un giorno all'altro una mettere in piedi un'organizzazione del genere se non ci fossero stati almeno 6 anni, io parlo dei 6 anni della mia conduzione in questo istituto, so quello che ho fatto, so quello che è stato fatto dai docenti. Da 6 anni si fa formazione ogni anno, obbligatoria peraltro per i nuovi docenti, sulla piattaforma che abbiamo adottato da 6 anni a questa parte, sì, che è la Google Suite for Education, che ha a disposizione gratuitamente per studenti e insegnanti una serie di app per la didattica utilizzabili peraltro da e questa da è una premessa giusta, cioè non si improvvisa una non cosa si improvvisa, così ovviamente non si improvvisa una cosa così, bisogna essere pronti. Se si è pronti, io rovescio l'ottica del discorso, si deve partire, non è pensabile che un paese si fermi, come non è pensabile che si fermi la sanità, e questo credo che nessuno lo metta in discussione. Non è pensabile che si fermi la scuola. Si può nel 2020, non con la stessa evidentemente efficacia e non con gli stessi processi cognitivi, attivare la lezione a distanza rispetto a quella in presenza, ma in ottica emergenziale per garantire un filo, no, di continuità, sì, rispetto all'apprendimento, sì, degli studenti. Si deve, se si è pronti. Sì. Ma senta, ma è vero anche di chi non lo fosse. Senta, perché ieri Gian Antonio Stella ha reso nazionale questo caso scrivendo sul Corriere della Sera: nell'istituto modello il no di un docente, in base alla lettera di Di Fiore, fa saltare l'e-learning. È davvero stato relativo a un docente, preside, poi lo chiedevo anche a Di Fiore, e ha fatto saltare tutto? Ma di fatto, da quello che ho potuto verificare io, un docente non ha effettuato le lezioni a distanza e non ha fatto saltare nulla, nel senso che tutti gli altri lo hanno fatto. Certo, sarebbe stato questo veramente clamoroso, certo. Voglio dire, massimo rispetto, capisce Di Fiore, massimo rispetto dei sindacati, però non è che il no di uno o di due o di tre potrebbe bloccare tutto, cioè eventualmente quel docente non, in base alle norme che lei ha citato e Stella riportava, non ha deciso di non adeguarsi e non fare lezione a distanza, no, Di Fiore? Sarebbe stato, certo, incredibile bloccare tutto, no? Sicuramente, certo. E innanzitutto voglio dire, colgo con gioia il fatto di sentire che la stessa dirigente sottolinea come la eventuale lezione o somministrazione di compiti a distanza non ha la stessa efficacia della didattica di gruppo e con i ragazzi. In secondo luogo, la mia lettera non era una strana sovrapposizione, quella poi di un invio di una lettera di un docente, non era tanto a tutela o difesa di un docente contrastivo, sì, ma di un gruppo di insegnanti e di decine di telefonate che ci hanno raggiunto. Però alla fine ci ha detto la preside che uno non si è adeguato. Io mi permetto di leggere alcuni passaggi di un'email della dirigente dove scrive: utilizzate questo strumento, chi non lo ha mai testato ci può provare nel pomeriggio, guardate questi tutorial, casomai chiamateci. Sì, allora, come dire, non erano preparati, non è vero? Non erano preparati, ma c'è un po' di flessibilità, io dico non è preparato, infatti provateci se uno ce la fa con buona volontà. Ma lei ha perfettamente ragione. E quello che dobbiamo evitare è di aprire le mani a una didattica virtuale improvvisata. ragioniamoci insieme. Improvvisata perché è tutto improvvisato, è stato tutto improvvisato. Cioè, se succede che per altre due settimane prima, ripeto, l'infettivologo Galli qui alle 8:30 su Radio 24 ha detto: non dipende da me la decisione, ma se volete il mio parere è impensabile che da lunedì la situazione torni normale. Che facciamo? Abbiamo tempo per prepararci intanto? Quei professori avranno tempo questi 5 giorni? Per... Certo, lei ha perfettamente ragione, tant'è che, ripeto, noi nel contempo siamo intervenuti sull'assessorato proprio per dire vediamo subito quali strumenti di emergenza possiamo utilizzare per rispondere all'emergenza. Su una cosa rispetto all'articolo di ieri, il giornalista Stella non sa, molte scuole hanno lavorato in questo modo, molte scuole, non sono andate sui giornali, molte scuole hanno utilizzato piattaforme e modalità per inviare compiti e attività con i ragazzi. Bene. Quello che cambia rispetto al Martini è che forse la dirigente, in questo sì pre-ottocentesca, non si rende conto che ci sono delle norme, la collegialità, il confronto, la condivisione. Adesso però Tiziana Rossi, guardi, vuole rispondere insomma a delle accuse. Cosa che vuol dire pre-ottocentesca? Mi sembra una preside molto moderna. Alcune precisazioni vorrei fare. Sì. Innanzitutto mi fa piacere che Di Fiore abbia ricevuto anche lui la mia mail, quindi evidentemente avrà potuto trarne qualche spunto positivo. In ogni caso, quello che veniva detto nella mail è che tutti i docenti, ripeto, da 6 anni fanno formazione su alcuni strumenti base, ad esempio Drive, strumenti di didattica collaborativa. Lì suggerivo anche l'utilizzo di altre app, Meet fondamentalmente, Hangouts, insomma le app della G Suite for Education, che magari non tutti invece, perché questi non erano sono un po' nuove, sì, sono un po'... sono comunque raggiungibili, però normalmente non si fa la videoconferenza con i propri studenti in classe, insomma, no? Chiaro. Si possono condividere dei documenti, si usa Classroom, che è la classe virtuale, peraltro noi abbiamo anche una nostra piattaforma PAD, nostra proprietaria, costruita da noi nella nostra area riservata del sito, quindi insomma abbiamo una pluralità di strumenti. Io in quella mail indicavo quello che certamente tutti avrebbero potuto utilizzare, perché e questo è certo per la formazione che viene fatta, sanno usare, ne suggerivo anche altri. Quello che è successo è che molti che non avevano mai utilizzato lo strumento della videoconferenza, Meet è un analogo di Skype per intendersi, si sono adeguati, di fatto poi l'hanno utilizzata e ne hanno tratto. Io voglio dire, ma anche perché questa è una prima precisazione. Poi mi sento di dire, Di Fiore continua a dire mandare compiti, no, la scuola non è quella che manda compiti, certo tutti abbiamo una mail, tutti hanno gruppi di WhatsApp con gli studenti, il punto non era mandare compiti, il punto era assicurare la lezione, avere dall'altra parte un docente che desse spiegazioni. Quindi è una cosa più complicata. Questa è la differenza, che è una cosa un po' più complicata e che è una questione di equità. Certo, in molte scuole alcuni si sono organizzati, e alcuni miei colleghi hanno lasciato liberi alcuni docenti di organizzarsi, e questo stava succedendo anche nella mia scuola. Perché io ho deciso di mandare una comunicazione a tutti? Perché sarebbe stato profondamente iniquo che alcuni studenti facessero lezione perché magari i loro docenti sono un po' più arditi, un po' più coraggiosi, si spingono un po' di più sulle tecnologie, ed altri hanno avuto magari bisogno di un input. Vabbè, ma questo succede, succede non tutto. Opportunità per tutti. Comunque facciamo così, io vi devo ringrazio Pietro Di Fiore, segretario generale della WIL Scuola Rua Trentino Alto Adige Sud Tirol, e Tiziana Rossi, preside all'Omnicomprensivo Martino Martini Mezzo Lombardo, Trento. Io credo che si debba essere tutti un po' flessibili, per carità, massimo rispetto dei sindacati, delle dinamiche sindacali, dei diritti dei lavoratori, però a situazione emergenziale si risponde in modo emergenziale, lasciando magari da parte un po' il codice, come stanno facendo, che ne so, tantissimi medici. Oggi leggevo la prima intervista al primario del pronto soccorso di Codognoli, dove è nato tutto, secondo ormai quello che ha accertato, e dice da 15 giorni non torna più a casa, non vedo i figli, così i medici, ragazzi, cioè, se volesse potrebbe anche appigliarsi a qualche cavillo sindacale per far saltare tutto, però evidentemente non lo fa. Comunque molti mi chiedono: di rileggere la lettera, tra poco la leggeremo, con Leonardo Manera, del dirigente del mondo dello spettacolo, che ha fatto questa mail un po' urticante nei confronti di alcuni che non vogliono lavorare nel suo settore. La rileggeremo dopo la pubblicità, visto che è arrivato anche Leonardo Manera. Uno, nessuno, 100 Milan. Mamma mia, l'Italia è il paese, rimettiamoci intorno al tavolo e valutiamo. E dovete far lezione didattiche da casa e fatelo. Mamma mia, quante palle. When you're happy from a dream, is it hard to work out what is real? Ospiti, ospiti nei talk show, fuori politici, fuori giornalisti, solo componenti scientifiche. Date un segnale di serietà anche da questo punto di vista. Sono un ultra 75enne e abito a Firenze. Mi sapete dire se sono obbligato a stare in casa o è una mia libera scelta? Cerchiamo anche di vedere il bicchiere mezzo pieno, in questo periodaccio cerchiamo, troviamo le cose positive. Solitamente in paese si viaggia a 20.000 manere all'ora, io ultimamente riesco a tenere una media di 50.000 manere all'ora, cioè non è male la cosa, si viaggia di bestia. È veramente fastidiosa questa idea che io vada piano, sia lento. Lento, ma guarda, pede. Che luoghi comuni, no, si vanno diffondendo. Che questo utilizzo della misura manera è meravigliosa. Ricordiamo che abbiamo ieri inventato il manerometro. Il manerometro, dunque, rispieghiamolo. Siccome le nuove regole prevedono di stare non tanto a un metro, ma sarebbe meglio dire 1,82 metri di distanza. Esatto, quanto sei alto? 1,81 più la scarpa, più 1,82. Quindi noi possiamo usare il manerometro, cioè lo portiamo in giro nelle manifestazioni, lo facciamo stendere e misuriamo la distanza tra una persona e l'altra, è la famosa distanza manera. Adesso pensiamo di andare al Louvre, dove c'è il metro depositato, e metterlo lì, il manera. Però è anche vero che quando si parla, ci sono persone che, anche non essendo ammalate, non emettono goccioline di saliva, e quelli che invece parlano un po' così tutto, sì, che esatto, tendono a sputacchiare. E secondo me lì il 1,82 non è sufficiente. Allora, aspetta, però io adesso devo tranquillizzare gli amici della SIAE. Attenzione, perché ci hanno chiamato. Ho letto. Tranquillizzali bene, che io, ho letto questo post su Facebook che è stato messo da un dirigente di una società dello spettacolo. Non è la SIAE! Come la vecchia trasmissione. Dillo della che Rai. La SIAE non c'entra, altrimenti non mi arrivano più i diritti. Amici della SIAE, state tranquilli, non ho parlato di voi, non ho detto neanche la società. Ma non è la SIAE, non è la SIAE, quindi tranquilli, sereni. È un'altra. E Daniela Ranieri del Fatto Quotidiano ieri su Twitter ha portato alla ribalta questa lettera, appunto, di un dirigente di questa società che non è la SIAE, che si rivolge così a tutti coloro che evidentemente nel mondo dello spettacolo, vista la situazione, rinviano le cose. Per questo desidero sommessamente esprimere il mio più totale, violento e profondo disprezzo umano e professionale a ogni singolo codardo tremante che a causa di una patetica influenza mediatica cambia i suoi piani lavorativi, i suoi impegni professionali e smette, piagnucolando come un fantoccio merdoso, di fare quello che avrebbe dovuto fare. E poi dice: non sarebbe certo una tragedia se un virus vi estinguesse. Il problema è che uno, anche volendo, io per esempio sabato avrei lo spettacolo a Fiorenzuola, ma è vietato. Cioè io andrei anche volentieri a farlo, ma è vietato, quindi non si può, meno di prendere, fare come ho detto io ieri. Cioè vendere in teatro un posto ogni 5, in modo che ci sia la distanza. Tra l'altro lì c'è anche il manerometro, ci sei tu, ti metti lì, prima passi 2 ore a fare le distanze tra le persone e poi fai lo spettacolo. Comunque va bene. Salutiamo. Hai visto che adesso, non ti disturbo più. Dicevo che in alcune trasmissioni televisive ci sono dichiaratamente le risate finte adesso, cioè si vede lo studio vuoto. lo non studio... ci credo. Sì, l'ho visto io. È vero, più o meno così. Si vede lo studio vuoto solo con i cameraman, sì. E però sotto si sentono gli applausi finti. E ma le come risate sono le risate finte? Questi sì. Penso che faremo così anche noi. Noi la settimana prossima cominciamo a riregistrare Colorado e penso che la soluzione adottata sarà questa. Va bene, salutiamo Marco Giovagnello che è un blogger, si occupa di aviazione. Marco, buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Allora, Marco Giovagnello, la verità è questa. Adesso ci deve spiegare Marco come siamo messi noi italiani a livello di percezione mondiale, perché vabbè, siamo gli untori del mondo, questo l'abbiamo capito a questo punto. Ci mettono in quarantena anche in Cina, io ieri quando l'ho letto. Mi sembra una cosa corretta, se si guardano i dati che vengono aggiornati sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e su altre cose, si vede che la zona della Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna è insieme all'Iran, a Hubei, che è la zona di Wuhan, e alla Corea del Sud, uno dei quattro grossi focolai del pianeta. Okay. E quindi mi sembra abbastanza normale che ci siano dei paesi che cerchino di impedire l'arrivo degli italiani. Mm. Anzi, io mi stupisco che non siano di più. Andare a Parigi magari sono malato. Ecco questa domanda, perché guarda Marco, che ce lo chiedono non sai quante persone. Ho un biglietto, posso andare? Per esempio, l'ascoltatore prima di Firenze, di 75 anni, non è obbligato a stare in casa. Il consiglio da ieri è sopra i 65 anni, se possibile, state a casa, poi non ci sono obblighi. Però che succede, Giovagnello? Io ho un biglietto per andare, che ne so, a Lisbona. Faccio un biglietto. Non è bello atterrare a Lisbona perché c'è sempre vento. Comunque, oppure devo andare. Come ci si comporta? Allora, innanzitutto credo che ci si debba rendere conto che chi vive in una regione e in una zona dove c'è più alto rischio deve considerare se stesso come ipotetico untore. Volente o nolente. Quindi è chiaro che se io abito a Palermo e devo andare a Lisbona, a Palermo non so se ci siano stati dei casi, probabilmente no. Se abito a Lodi o vicino a Bergamo è molto più probabile. Quindi se devo andare, va bene. Se no, meglio. Se non devo andare, mi faccio un pensierino riguardo invece, al resto dell'umanità, okay, e me ne sto a casa. E questo è l'atteggiamento personale, ma vorrei capire le compagnie aeree si comportano. Le compagnie aeree, diciamo che in questo momento in Europa i blocchi non ci sono. Cioè c'è la Romania che ha cercato che mette, se non sbaglio, in quarantena chi viene da certe zone d'Italia. Però anche lì rendiamocene conto, cioè la maggior parte delle persone che volano tra Romania e Italia sono dei rumeni che vivono in Italia e tornano a casa. Allora l'obiettivo è quello di impedire che tornino a casa e infettare amici e parenti. A parte questo caso e il fatto che credo che la Bulgaria abbia fatto interrompere i voli con Milano, nel resto dell'Unione Europea è tutto libero. Perché il ministro degli esteri, ad esempio, la SAS ha deciso che Scandinava. Non fa, cioè i governi scandinavi hanno deciso che la SAS non deve venire più a Milano. Questa però perché allora il ministro Di Maio ieri, il ministro degli esteri, ha detto sono sbagliati i blocchi per i voli dall'Italia? Di Maio, presente come si dice perché Sanremo è Sanremo, ecco perché Di Maio, commentare? No, non lo so, va bene, è un commento anche efficace se questo... Beh, da un certo punto di vista allora, è anche normale, no? In questo momento... E per le prossime 2-3 settimane va messo sotto i piedi. L'orgoglio, poi bisogna pensare a una cosa, che ci sono dei settori che sono letteralmente messi in ginocchio. Pensate alla povera ragazza che fa la cameriera e lavora, la cameriera nel senso che quella che fa le camere lavora a Milano, dove gli alberghi sono praticamente vuoti chi ci lavora viene licenziato. Ragazzi, ma questo non è solo il settore aviazione, questo è un problema. È una persona che ha delle tutele come dipendenza di No, ma questo è un problema che si vedrà nei prossimi mesi. Tutti coloro che lavorano nelle fiere, negli eventi, legati agli eventi, anche compagnie, aziende di pubblicità, tutto il settore legato a tutti gli eventi che sono annullati, sospesi, persone che magari non sono strutturate, non sono dal punto di vista contrattuale tutelate al 100%. Per loro è una tragedia, e il governo dovrà pensare a queste persone, perché allora, siccome queste persone si stanno sacrificando per il bene degli altri, è giusto che lo Stato poi redistribuisca il dolore sugli altri. Su tutti i cittadini, però sarà difficile quantificare, diciamo, in termini economici. Ci vorrebbe uno Stato efficiente e intelligente, però col tempo spero che lo si faccia. In questo momento credo che l'obiettivo principale sia evitare che ci siano delle altre Codogno o delle altre Alzano Lombardo, eccetera, perché poi non ne veniamo fuori più. No, ma è chiaro che... E poi soprattutto c'è il rischio che anche quando sarà passata l'epidemia, la gente ci veda come un paese che non è riuscito a bloccare la faccenda. Noi vediamo che con misure draconiane, antidemocratiche, tutto quello che vogliamo, però i numeri che vediamo sono che in Cina l'infezione si sta espandendo in maniera molto più limitata, cioè ci sono altrettanti casi in Lombardia e nell'intera Cina, i nuovi casi, è un grande successo antidemocratico, ma è la realtà. Quindi se la malattia si espandesse anche nel resto d'Europa in modo significativo, si potrebbe ipotizzare un'Europa chiusa completamente, dove ognuno sta nel proprio... Ma in realtà è già chiusa l'Italia, cioè io a Codogno ci posso andare, quelli di Codogno non possono venire. Beh, alcune zone d'Italia, però ci ha detto che un aereo lo può prendere, insomma, e andare... Lo posso prendere, però quello che vediamo è che ci sono delle diminuzioni di passeggeri dell'ordine, non si capisce bene, ma oltre il 50%, su certi voli fino al 90%. Beh, chi può non volare, chi non deve volare per necessità, non prende, non si sposta. Esatto, questa è la verità. Esatto, credo che sia una questione di responsabilità. Mi dispiace naturalmente perché sono un appassionato del settore, e vederlo così e soffrire fa male. So che ci saranno delle conseguenze terribili. Guardi, un altro caso, c'è una compagnia italiana che è sempre andata molto bene, è un esempio eccezionale, ed è la Neos, che molti hanno usato magari come charter, così, a quale si è vista tutte le proprie destinazioni bloccate. Cioè l'Oman hanno fatto venire più gli italiani, questo, praticamente hanno gli aerei per terra, poverini, quindi ricavi zero, e senza avere nessuna colpa. Ed è gente che non ha mai avuto nessun aiuto da parte dello Stato, ha sempre pagato le tasse sugli utili, cioè veramente è un disastro. Però non credo che ci sia alternativa, Eh certo, grazie Marco, allora, Giovannino. Grazie per questo intervento. Non c'è alternativa, questa è la verità. No, ma anche oggi quando leggevo nuove regole, non si stringe la mano, non si danno i baci, ragazzi, però è la vita che io ho sempre fatto prima. Esatto, tu sei sempre stato barricato. Però se siamo qui a dire va seguita la scienza ci dice questo, adeguiamoci. Ringrazio l'ascoltatore che mi dice che il metro è a Sèvres e non al Louvre. Vabbè, errore mio. Allora metteremo anche il Manera, che è 1,82 m con le scarpe, come lo metteremo lì in una teca a Sèvres a fianco al metro, è la distanza, è il droplet Manera, lo chiameremo così, il droplet Manera, e rimarrà sto, così sto cercando di parlare in direzione che sia diversa dalla tua. Anche tu quando parli cerca di essere più verso giro di là, il vetro regia, in modo che le nostre goccioline non si mischino. Vabbè, dai, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. In merito alle nuove regole emanate, io sono un ultra 65enne, ho compiuto 65 anni, vado per i 66, ma siccome devo mantenere la mia famiglia, devo lavorare, io del fatto di stare in casa me ne frego, con buona pace di tutti. Salve, buona giornata. Ecco, non so che dire. Che poi, Leonardo, devo dire, tu lo sai perché ci siamo occupati di tutto questo tema degli aerei, che è importante per molti, per moltissimi. Per interesse privato. Personale. Un uso personale, privato di uno strumento pubblico, la radio. Cioè perché per Elisabetta Fuscone deve andare a Lisbona. Allora, vi ricordate gli avvocati che avevo assoldato? Sì. Per la querela nei vostri confronti? Non li ho licenziati, sono tuttora al lavoro, stanno preparando le carte. Carte su carte. Voi mi state denigrando in onda, non è vero che ci siamo occupati di questo tema per mio interesse personale. No. No, non è che ha detto diciamo non è che vero che devo andare a Lisbona. Cioè, notate che non ha detto non è vero che io debba andare a Lisbona. Diciamo che l'interesse era mio come quello di migliaia di persone all'ascolto. Milioni che devono andare a Lisbona, non mi risulta. Guarda che ci sono migliaia di lombardi che stanno tentando la fuga a Lisbona in questo momento. Siamo tutti lì a Lisbona. Che poi tu hai ricordato alla nostra Elisabetta che andare a Lisbona non è mai bello atterrare a Lisbona, perché si esce sull'oceano, poi si torna verso la città. Spiegamoglielo meglio, perché lei è terrorizzata di volare. Spiegamoglielo bene cosa può succedere. Allora, quando atterri a Lisbona non è che arrivi dal continente e poi vai giù tranquillo, esci sull'oceano e poi torni indietro per atterrare. Ci sono sempre venti molto forti e le turbolenze sono terrorizzanti. Certo, i piloti si divertono. Guarda, tra l'altro subito, Elisabetta, ma dove vai? Già siamo stati un tori e ci dicono a Tenerife. Tra l'altro ci collegheremo con Tenerife forse nella seconda ora. No, forse. Sta andando male il collegamento con Tenerife. Sta andando male, niente, saltano le linee anche. Quindi dove vai? Mi piacerebbe tanto andare in Portogallo, ma temo che resterò qua. Per responsabilità, per senso di responsabilità. Non mi faranno viaggiare, chiuderanno tutti, mi metteranno in quarantena. Facciamo un appello pubblico? Ve la prendete a Lisbona, per favore? Elisabetta Fusconi vuole andare a Lisbona. Cari amici di Lisbona, portoghesi all'ascolto, prova a dirlo. Portoghesi all'ascolto, ve la cattao. No, oh, dai, vai a lavorare. Dal Ticino a Lisbona, niente. Questo è. Allora, uno degli stereotipi del cinema e anche di molti film e TV è il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Quando c'è un malvivente e la polizia riesce a prenderlo per farlo confessare, arrivano inevitabilmente poliziotto buono e poliziotto cattivo che, usando il bastone e la carota, di solito ottengono lo scopo. Il poliziotto buono, per esempio, dice: se collabori te la puoi cavare senza troppi danni, ti conviene. E non appena il malvivente tende a rilassarsi, arriva quello cattivo e gli dà uno schiaffone che gli volta la faccia dall'altra parte. Così alla fine il disgraziato non sa più a chi credere, confessa tutto, anche senza essere convinto, pur di non ritrovarsi più in quella situazione schizofrenica. Preferisce comunque chiudersi in galera, pur di non trovarsi più di fronte a un poliziotto buono e al poliziotto cattivo e al loro interrogatorio bipolare. Lo stesso sta succedendo in questi giorni di coronavirus, solo che al posto dei poliziotti c'è il virologo buono e il virologo cattivo. E al posto del malvivente ci siamo noi, cittadini comuni, che non conosciamo vita, morte e i miracoli dei virus. E allora ci accomodiamo in questi giorni clausura davanti alla TV, sperando di capirne un po' di più. E dal momento che una cosa che questi giorni certo non manca sono le trasmissioni che parlano del Covid-19, non è difficile imbattersi in vari programmi che sul virus sono incentrati. Faccio quindi zapping e mi imbatto nel virologo buono, che sostiene: certo, è una malattia che non va presa sotto gamba, ma danneggia maggiormente chi ha già altre patologie gravi e in generale la mortalità è bassa. Ah, a quel punto io faccio una mia personale e veloce anamnesi, non mi sembra di soffrire di patologie particolarmente gravi e mi sento vagamente rassicurato, perché penso che se anche prenderò il coronavirus, al massimo, seccatura dell'isolamento a parte, me la caverò con qualcosa in più di un'influenza. Insomma, mi sto quasi vestendo per andare a fare la spesa al supermercato, anche fischiettando. Ho già messo le scarpe. Prima di spegnere la TV però cambio canale. Così, quasi senza pensarci. E in un'altra trasmissione mi imbatto nel virologo cattivo. I toni sono quasi simili a quelli del virologo buono, anzi l'incipit è del tutto simile. Infatti dice: certo, è una malattia che non va presa sotto gamba. Danneggia maggiormente chi ha già altre patologie gravi. Ma può essere grave anche per chi è sano, come nel caso del paziente 1 di Codogno. È vero che la mortalità è bassa, ma Molti hanno bisogno della terapia intensiva e in caso di esplosione del virus potrebbero non esserci posti in terapia intensiva sufficienti per tutti. Il battito del mio cuore aumenta, impallidisco. Mi ero già messo una scarpa per andare a fare la spesa al supermercato. L'altra scarpa ce l'ho in mano, indeciso se metterla o no. L'ultimo che ha parlato è il virologo cattivo. Delle parole del virologo buono non ricordo quasi più nulla e mi restano in mente due cose. Può essere grave anche per chi è sano e terapia intensiva. Resto lì 40 minuti con la scarpa in mano, bloccato dalle dichiarazioni sinergiche del virologo buono e del virologo cattivo. E alla fine faccio la stessa scelta del malvivente che, teso e stressato dall'interrogatorio bipolare, preferisce confessare e andare in galera. Anch'io allora preferisco la galera, cioè mi tolgo l'unica scarpa messa e mi chiudo in casa, dando inevitabilmente più ascolto al virologo cattivo che a quello buono, anche se in verità è il combinato disposto di entrambi che mi porta alla nevrosi. Non mi stupirei se fuori da qualche studio televisivo virologo buono e virologo cattivo si incontrassero per andare a brindare insieme e dire: ce l'abbiamo fatta, li abbiamo fatti rimanere dentro. Bravo Leo, effettivamente sì, però mi hanno spiegato che poi sono anche gli scienziati, o non so, l'epidemiologo, l'infettivologo, il virologo, sono tutti medici, ma ognuno ha un approccio dal proprio punto di vista, certo. E quindi racconta lo stesso virus da un altro punto di vista. Ma secondo me è l'insieme di queste opinioni un po' contrastanti che alla fine crea le nevrosi. Ma infatti, voi scherzate, ma io mi comporto come Manera. No, ma non, infatti Manera non stava scherzando tantissimo, è anzi un intercettatore della realtà, assolutamente. Allora, c'è Marisa, ci chiama da Brescia. Marisa, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci, salve. Come va? Vi stavo ascoltando bene, grazie. Volevo solo darvi nuove di Tenerife, visto che sono arrivata l'altro giorno. Ah, da Tenerife. Ma quello che si sente via radio e poi ovviamente quello che si sente in televisione. Fisicamente non mi sono allungata fino all'albergo blindato, che continua ad essere blindato. Sì. E la cosa strana che si sente via radio sono i taxisti che parlano, perché ovviamente sono in quarantena anche alcuni taxisti che sono entrati in contatto con il medico, certo, che è stato portato all'ospedale, di conseguenza il collega tassista deve aver messo sparso questo virus, per cui c'è tutto un ciarlare di virus. Insomma, c'è un po' di preoccupazione, poi essendo un'isola si fa in fretta a far fare il giro, no? No, in verità non si percepisce, no, la preoccupazione. No, no, vabbè, cioè la vivono forse... come? La vivono come? Sono... No, probabilmente gli ospiti dell'hotel non sono sicuramente felici di stare blindati in questa... Cioè, comunque l'isola merita di essere vista e il mare merita di essere visto. L'interno dell'hotel è sicuramente confortevole, però sono blindati nelle, certo, camere, certo. Non sono, sì, non sì, possono, sì, chiaro, chiaro. Non possono uscire. Guardi, no, le zone comuni, la Marisa, no, sembra che l'abbiano chiusa. No, ma è chiaro Marisa, è che anche la linea telefonica, dobbiamo andare al giornale radio, poi la linea telefonica effettivamente era, no, questo non è vero, si sentiva bene Marisa. No, non è vero, è una, non è vero. Scusa. Guarda l'Alpino. Oh, sentiva bene. Guarda l'Alpino che ti dice ma no. Quante scuse inventi, ma, veramente. Ma non è vero, ma che scusa? Ha detto e la ringrazio moltissimo, questa qual è la situazione? Non si sente bene. No? Io sentivo perfettamente, ma no, devo dire la verità. Smettila, smettila. Allora, appunto, giornale radio e poi dopo parliamo di tante altre cose. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora signore, 18 minuti, la seconda ora di Uno, nessuno, 100 Milan, caro Leonardo Manera, senti un po' qua il nostro pubblico. Io consegno il pane a Padova, nelle zone gialle, eccetera. Tutti i giorni, ho 67 anni, nessuno mi dice niente, nessuno mi dice di stare a casa. Anch'io settimana prossima vorrei andare in Portogallo a fare un trekking, ma ho paura che resterò a Milano come Elisabetta Fusconi. Incontrate. Leonardo, dobbiamo, adesso allargando un po' il discorso, parlare un attimo della TV. Sono successi, ma guardi gli episodi, ma tu vedi il Grande Fratello VIP? No, so, guarda, scusa se ti insulto con questa domanda. Sinceramente no, c'è un fascino perverso che a volte mi indurrebbe a rimanere lì a guardare, ma io cerco di evitare. Ragazzi, faccio prevalere la parte, la corteccia cerebrale e giro. L'ultima vicenda riguarda tale Asia Valente. Non so chi sia. Ma neanch'io, ma non lo dico per snobismo, proprio, cioè, non... sì, mi hai stampato tutto, Lorenzo, ma aspirante showgirl, che ricevuta, credo, una sberla da qualcuno, un copino, ha risposto. Siamo sul copino. Ha risposto così in onda. Sei un down utilizzato come un insulto. Cari miei, cara Asia Valente, io ci sarebbe tanto da spiegarti, ma temo che sarebbe inutile. E quindi non spieghiamo. Cioè, sei un down usato come un insulto. Siamo ancora a questo nel 2020 nella TV italiana. D'altronde l'altra celebre. No, adesso però scusa, non è sì. Che si può incolpare la TV di tutto. Se questa è una ragazza che purtroppo si esprime così, adesso non è neanche colpa di Canale 5. Che... No, ma non è questione di Canale 5. Forse bisognerebbe fare una riflessione, e qui divento trombonissimo su delle. Di trasmissioni che mettono insieme degli scappati di casa che hanno aspirante showgirl, e poi che cosa può succedere? È chiaro che, voglio dire, non è che hanno messo lì il professor Galimberti professor Giorello del Grande Fratello che discutono della nuova filosofia canneo-kantiana, no? Succederà, e poi dopo... che lei si pentirà, chiederà scusa, sì, chiederà scusa, non ce grandi, l'ho, avrà c'ho degli amici down, in studio, ho degli amici farà down, atto di sì. Contrizione e tornerà poi in qualche altra trasmissione. Ho degli amici down. Certo, sì. Anch'io degli amici down. Sì, sì, sì, sì. E poi c'è l'altra, Clizia in corvaia, che invece aveva dato del buscetta a uno per insultare. Sei un buscetta, per dire sei un infame. Che voglio dire, buscetta certamente nella vita ha fatto tante cose sbagliate, però alla fine ha collaborato. Adesso, no? Adesso, tu parli solo. Sentila sì, qua, Clizia sentiamo, in corvaia. Sentiamo. Un buscetta. Tu sei un maledetto. Buscetta. Sei un pentito. Che poi voglio dire, scomodare Buscetta, perché cazzo gli avrà fatto? Gli avrà svelato che l'ha nominata, no? Uno scomoda il anni fatto, della mafia, sei un Buscetta, ma dai, ma il a fatto che tu parli male solo di donne dimostra che sei che un sessista. Fatemi prendere un respiro, va. Federico Palmaroli, buongiorno. Ciao Federico. Buongiorno a tutti. Federico Palmaroli è un grande. Voi magari non lo conoscete come Federico, come Federico Palmaroli, ma lo conoscete su come le frasi di Osho, no? Come Osho, alter ego di Osho, come dobbiamo dire? Al secolo Osho. È colui che verga tutte quelle frasi satiriche che trovate sui social, le frasi di Osho. L'ultima ovviamente nasce, le più belle frasi di Osho, nasce dalla vicenda francese. Ci hanno fatto lo spot contro la pizza, dai, come tutti facciamo lo sentire. È abbastanza disgustoso. Abbastanza anche. Sì, perché c'è uno che scatarra sulla pizza, fa proprio schifo. Vous êtes présenté par la pizza Corona. La nouvelle pizza italienne qui va faire tutto. Vabbè, l'ha ritirato la pizza Corona, però le belle frasi di Osho l'ha immortalato. C'è Conte che dice a Macron che cosa? Io se fossi in te farei poco spiritoso con un'anziana in casa. Sapete che delicatissimo, no, però, sapete che Macron, come dire, ha una moglie age. Vabbè. Ma l'ironia di sti tempi, Federico, che si fa? Io credo che sia inevitabile su una situazione del genere fare ironia, perché il fenomeno oramai è talmente diffuso, insomma anche i social favoriscono queste cose, che è impossibile. Certo, il tema è serio, però si fa ironia sulle cose serie, non sull'ironia. Anzi, ovviamente. Forse più in questi periodi, no? Come ho già detto altre volte, l'ironia, la comicità nasce per esorcizzare le grandi paure. Quindi... Sì, sì, ma è lo scopo proprio della satira, dell'ironia in generale, che credo che questo non voglia dire essere poco sensibili al problema o perdere di vista la gravità della situazione, però anche un po' per smorzare, anche per ridimensionare un po' il fenomeno. Sì. Ma senti, ma qualche seguace di Osho non sei un po' incazzato con te? No, niente però. Sì, sì, sì, sono infatti è stato il motivo per cui ho switchato poi dalle frasi di Osho, quelle insomma ironiche, tradizionali che con cui sono partito alla satira politica, è stato quello il motivo, anche in realtà anche vincente con realtà. Sì. Ma dai, ma perché arrabbiarsi? Cioè, capisco, però, no? Ci sono quelli che il tema probabilmente è capire, per esempio, quella da pubblicità sulla pizza non è più ironia, ma sconfina in altro. Ecco, secondo me bisogna capire questo, qual è il... Ma anche gratuita, cioè non era neanche satira, secondo me, non aveva nessun senso, comunque un obiettivo finale ci deve essere, no? Sì. Quella sembra veramente una cattiveria e basta. Sì, un po' una cattiveria così. Però è difficile adesso, cioè, o meglio, è più facile, Federico, fare ironia sulla politica, che è un gran classico, insomma, l'ironia sulla politica, tutti ci si buttano, oppure fare ironia così sulle nostre paure quotidiane, sui nostri timori, forse si è visti un po' come quelli che speculano a volte sulle paure della gente? Sulla politica ovviamente si va incontro alle critiche o agli insulti dei supporters dell'una o dell'altra parte, e questo va bene, si sa che è così. E sulle nostre paure quotidiane, in particolar modo sul coronavirus, ho notato che finché era un problema solo dei cinesi nessuno diceva nulla sulla satira, su questo tema. Appena arrivata in Italia ovviamente sono cominciate le critiche, però su questo non bisogna fare ironia. Poi, siccome è sfuggita di mano la situazione e chiunque ormai fa satira su questo tema, ovviamente anche i detrattori non possono più andare dietro a tutto, quindi buona pace loro. Però insomma è così che vanno le cose e c'è poco da fare. Infatti, pensa adesso se arriva a Roma in maniera un po' più concreta, no? Cioè, ti sei già attrezzato, hai già in mente? In realtà ho già fatto qualcosa, insomma, ho rappresentato questo coronavirus, anche una forma anche abbastanza accattivante, se vogliamo. Messo in mezzo al traffico del raccordo anulare, ed era questo il motivo per cui ancora tardava ad arrivare a Roma. Fermo in coda, adesso invece ce l'ha fatta a raggiungere almeno Roma Sud, perché parte sempre tutto da lì, nel senso che i primi fiocchi di neve sono sempre a Roma Sud, i primi fiocchi sono sempre da lì, parte. Un po' come dalla Cina, le altre malattie, tutto a Roma nasce da Roma Sud. Esattamente, forse perché le vie d'accesso sono più agevoli. È stupendo, ce n'è anche una, non so se ce la vuoi dire, che io ho visto sempre per riportarti sulle frasi di Osho, scusami, ma su Twitter, quella su Di Maio e il celeberrimo virus o virus, no? La pronuncia di Di Maio, ce n'è una, te la ricorderai, in cui Di Maio dice... È una che dice a Crimi, ma se pronuncia Vito o Vaito, che poteva essere un altro dubbio. E l'altra? E poi c'è l'altra, con lui che ha una posa inequivocabile, dice a me mi piace la faiga. C'è capito? Stupenda, questa è stupenda. Ma ragazzi, ma si può ridere di queste cose? Ma dai, su, ma una risata, ma sì, è contagiosa. Un po' di leggerezza, ah poi. No, contagiosa adesso. No. Aspetta, no. Contagiosa è meglio di no. Di una tempo. Risata è più contagiosa del coronavirus. Esatto. Va bene, dai, Federico, ti ringraziamo moltissimo. Grazie a voi. Federico Palmaroli, le frasi di Osho, ma insomma, è comico, fa satira politica. E Ale, lo trovate sui social, lo trovate così, ma si può ridere, no? Per forza. Si deve ridere, non c'è nessuna mancanza di rispetto, e al fianco della risata... Ma guarda che tu, per esempio, uno dei luoghi dove le persone ridono di più sono i funerali. È vero. Quando finisce, poi... Insomma, adesso... No, è vero, guarda, quando c'è, dopo alla fine adesso. Del funerale, si cerca sempre di esorcizzare con una battuta, di dire una roba che riporti un po' di leggerezza in un clima pesante. Ma sì, è la vita che continua, e tutto questo non è né mancanza di rispetto. Bisogna sempre ridere in qualsiasi situazione, anche nei funerali. Anche quando ti con il clown Neronello, l'amico dei bambini. Yip. Ah, è tornato per un attimo al suo vecchio lavoro. Certo. Va bene, tra poco invece, con un grande ritorno, il mitico Idris, l'uomo nero, come si chiama lui, ve lo ricordate? Idris Sanné, grande tifoso della Juve, vabbè, insomma, parleremo anche un po' di calcio non giocato e anche di un'iniziativa nella quale è stato coinvolto Idris. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, chiariamo subito che il sottoscritto Alessandro Milan, nomen omen, è milanista, che il nostro Leonardo Manera è milanista. Però il buon Idris non ci ha ascoltato, doveva ascoltare questa premessa, perché altrimenti sa insomma di essere messo nella grande fossa dei leoni. Adesso ma la Juventus comunque è una squadra minore, insomma, tutto sommato. Dal punto di vista europeo è una squadra minore. Ah sì, ma vedi, non sente, aspetta che dobbiamo rifarla. Allora, rifacciamo l'introduzione. Rifai uguale, sì. Allora, sì. Rifacciamo l'introduzione. Alle 10:20 minuti, allora, dichiariamo che il sottoscritto Alessandro Milan, nomen omen, è milanista. Leonardo Manera, Milanista. E poi dicevo che la Juventus comunque dal punto di vista europeo è una squadra minore, è una delle squadre minori. Sì, una squadretta. Sì, no, che è brava nel proprio orto, l'Italia, però sì, fuori da qui è una squadra minore. Una squadrettina. Accogliamo così con un grande abbraccio virtuale, di sti tempi virtuale, Idris, grande, mitico. Mi accogliete con una grande provocazione. No, ma perché? Ah, sì, noi siamo una squadra minore, 14 sì, milioni di tifosi in Italia. Quante diciamo coppe dei campioni? Quante coppe dei campioni avete? Due. Vinti sul campo. Sì, va bene. E noi sette. Allora. Sì. Vabbè, io non sono mica tanto invidioso, nel senso che quei tempi lì, illo tempore, sì, lo meritavate, avevate la squadra migliore. Grande Idris. Come sta? Intanto, hai visto che c'è questa follia? Non si capisce perché tutta l'Italia parla del coronavirus, il calcio deve litigare sul coronavirus, e si gioca e non si gioca, e si gioca a porte chiuse. Adesso hanno rinviato Juve-Milan, che era questa sera di Coppa Italia. Ma tu hai capito perché nel calcio il calcio non riesce ad adeguarsi al mondo normale? Ecco, si chiama a calcio per antonomasia, e cioè una disciplina in cui si litiga molto, cioè il rapporto al rugby. Il calcio chiama il tifo una malattia, una sindrome che prende la testa delle persone, anzi la pancia, il cuore e la testa delle persone. Ed è questo calcio che divide invece di unire. Mi ricordo tanti anni fa c'erano le società sportive, litigavano certamente, però in fase, quando c'è un problema di un caso nazionale, si riunivano tutti, si fermava tutto, è vero. Anche in nome del calcio, perché era l'immagine che si dava al paese di una disciplina sportiva che divideva, però nei momenti di grande difficoltà si univano e fermavano tutto. E sì, non capisco perché adesso, per ragioni di Dio, di denaro, alla faccia della salute della gente, non vogliono fermarsi. È un po' il denaro. Secondo te quale sarebbe la soluzione giusta in questo momento, a tuo parere? Fermare tutto. Cioè, con una decisione unilaterale, ascoltando i scientifici, quelli che sono assermentati a dirci se possiamo o no. Una volta ti dicevano, mica te l'ha prescritto il medico di andare allo stadio, ora loro ci dicono di non andarci. Finché non vediamo delle soluzioni, c'è un contagio che sta serpeggiando nel paese e nel mondo, è una pandemia, che se ne vogliono dire, e o qualcuno se lo vuole nascondere, come in altri paesi che conosciamo e non facciamo i nomi, dove ci sono i morti soppiti e sepolti senza che se ne parla, perché è una decisione del governo. Non ne parliamo per non creare una psicosi, invece hanno creato il panico ora che si sa tutto, che il bubone si è svelato. Certo. Allora svegliamoci, il calcio non vale la pena di dover assistere a dei morti per contagio, cioè, non ha senso. L'UEFA, la FIFA che prendono decisioni radicali per dire ok ragazzi, finché non avremo il nulla osta dei scientifici, degli scienziati, ci fermiamo. Tra l'altro tutti. Vorrei far notare, oggi mi ha fatto notare un collega tifoso del Napoli, che qualora dovessero dire il campionato, ipotesi assurda, finisce oggi, lo scudetto andrebbe assegnato alla Juve, che è 2 punti dietro la Lazio, perché si congelerebbe la classifica all'ultima giornata in cui tutti hanno giocato. Beh, io sogno questo, cioè passerebbe alla storia che la Juve vince anche quando è 2 punti sotto in classifica. Vabbè. Sarebbe straordinario. Allora, sarebbe meraviglioso. Sarebbe una guerra civile tra tifosi. Infatti, Idris, dai, vogliamo parlare di questa iniziativa che ti coinvolge? Mi piace. È vero che c'è una squadra di calcio della Guinea, e quindi stato africano, che ti ha coinvolto per fare che cosa? Ma cioè, loro ad onore mi hanno nominato presidente di questa squadra di giovani talentuosi che hanno dai 13 ai 16 anni. Che giocano lì, si sono organizzati, hanno chiamato la squadra Idriss Sané. Si chiama così proprio, Idriss Sané. Sì, io non l'ho voluto perché non voglio le cose autoreferenziali, cioè capito il nome, cioè gli ho detto, anzi gli ho proposto di cambiare nome perché, cioè, a dire la verità, non merito una fama così splendente. Comunque sono dei giovani che si sono riuniti, sono molto bravi e hanno una squadra e gli manca tutto, naturalmente, sai, in Africa come siamo poveri, non al punto di dover chemendare, però insomma gli aiuti che possono provenire dall'Italia, sapendo che io vivo nel mondo del calcio, ho dei contatti, e mi hanno chiesto per favore se li posso posso provvedere a cioè i palloni, le scarpe no? Anche usate, non so, magliette per allenamento, cioè non soldi ma proprio materiale per giocare a calcio. E tu invece hai chiesto dei soldi per lo sfruttamento dell'immagine, no? Ma per carità di Dio, io sono un buono. Ma come si fa? Perché io ho visto che c'è questo hashtag che è Idris per la Guinea, giusto? Idris per la Guinea, sì. Ho capito, ma poi uno se vuole mandare una maglietta come fa? Beh, troverò un punto di raccolta, creerò un'organizzazione, adesso è là che stiamo dando, un calcio diciamo d'inizio, poi mi organizzerò naturalmente molto meglio per ufficializzare questa roba qua, questo è un lancio che facciamo, poi il punto di raccolta si troverà, sicuramente sarà a Brescia perché io abito a Brescia, e poi manderemo tutto il materiale raccolto al mio amico Mustafa, Jabi, che è il presidente del club della Guinea. Quindi attenzione, intanto seguite questo hashtag o rilanciatelo, Idris per la Guinea, tutto attaccato, sì, ovviamente, Idris per la Guinea. E poi preparate, che ne so, la maglietta del vostro figlio che non usa più, magliette, ecco, della Juve, che sono, ecco, veramente, invece di buttarle nella spazzatura. No, non ci provare, no, eh. Non ci provare. Scusa, allora, non magliette dell'Inter che, vabbè, che usate in genere come stracci per i pavimenti a casa? No, invece. Dai, sì, sia gentile, quello sei. No, scherzo. Comunque, dai, che i tifosi poi si arrabbiano su queste cose. Ma no, non si arrabbiano, cioè, abbiamo di peggio da pensare. Esatto, quindi, esatto. Forse è meglio che i tifosi prendano coscienza che il calcio è un gioco. Qui abbiamo delle cose molto più importanti a cui pensare, quindi non andare allo stadio non ci farebbe del male, no, e fare del bene fa bene al cuore. Bravo, un pizzicotto che si dà al cuore in questo frangente di malatempora curum, è meglio che cerchiamo qualcosa di meglio, cioè fare del bene. Lo dico pro domo mia. No, ma giusto. Allora, Idris, intanto ti ringraziamo molto. Idris per la Guinea, trovate l'hashtag sui social, cominciate a farlo circolare. Poi Idris ci farà sapere come raccoglie del materiale usato, scarpe o nuovo, se volete regalare delle magliette, palloni, scarpe, parastinchi, non lo so, calzettoni, pantaloncini. Poi Leonardo, basta, serve. No, stavo guardando i nuovi problemi che vengono risolti dall'elisir del dottor Meazza. Tipo? Ho visto alcune cose certificate. Risolvono problemi di acufene, capelli deboli, problemi con la caldaia e acari della polvere. Beh, bello, io lo vorrei per la caldaia. Ho un problemino, cioè, nel senso, invece che chiamare il tecnico a 200 bevi euro, bevi un sorso di elisir e la caldaia ricomincia. Cioè, perché questo è il bello, non è che lo metti nella caldaia. No, lo bevi tu. Lo bevi tu. Cioè, il gesto è semplice, te lo bevi e trick. E la caldaia ricomincia a funzionare. Poi schiacci normalmente la caldaia, sì, e via. E funziona perfettamente. Ma ragazzi, ma è miracoloso. È una roba fantastica. Vabbè. Bravo, Mauro. Bravo. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, le 10:36 minuti, direi che la trasmissione scorre piacevolmente verso l'ultima mezz'ora senza ansia, senza preoccupazioni, senza... Ma che cacchio? No, vabbè. Sono di nuovo qua. No, vabbè. Ma sono... Lisbona. Sono qua con una proposta, almeno ascoltala. Questa è una cosa utile, tra Attenzione. L'altro. È una cosa utile. Attenzione. Vorrei estendere alla redazione di Uno Nessuno 100 Milan, sì, gli esercizi, sì, i compiti a casa che, sì, alcune scuole hanno mandato ai propri alunni. Bene. Per la materia sport. Sport. Sì, compiti di sport da fare. Ginnastica. Siccome è sotto gli occhi di tutti che questo coronavirus sta coltivando l'ozio, le palestre sono chiuse, tutti mangiano per quietare l'ansia da coronavirus. E infatti sono un po' ingrassati. Ma infatti, tutti, è così. Credo. Allora io vorrei che da oggi ci mettessimo tutti a fare nell'ordine. Leggo i compiti arrivati, nello specifico li ha inviati la scuola tedesca di Milano. La scuola, no, prendete nota, cari ascoltatori. No, fatevi due domande, due risposte. La scuola tedesca. Leo, no, prestati. Guarda, ora. Allora, inizia già a farli. Potresti farlo in diretta, sarebbe meraviglioso. Salto della corda per un minuto. Ma per chi non avesse una corda può fare saltelli sul posto. Allora, questo è semplice, si può fare. 20 piegamenti sulle gambe. 20 piegamenti. 10 piegamenti sulle braccia. Sì. Poi non so perché hanno inserito bevi un bicchiere d'acqua. Vabbè, per recuperare un po', sì. 20 addominali. 20 addominali. E ragazzi, poi, ma è durissimo. Caro alunno, riprendi tutto da capo. Per quante volte? A oltranza, così. Ma come oltranza? Capito? È pieno di bambini chiusi in casa e stanno rimbambendo davanti a iPad, Santo, televisioni, video, eccetera. Almeno la scuola tedesca, encomiabile, congratuliren, gli manda degli esercizi. Congratuliren è il nome di un professore? Non lo so, congratuliren, non lo so chi è. Vabbè. Ma lingua, so che anche la scuola svizzera sta mandando compiti di ginnastica. Io lo trovo veramente un gesto di buon senso. Va bene, arriva un messaggio. Alessandro, ti prego, tieni stretto Leonardo, che è una figura così rara, dai valori alti, magari averli io. Tra l'altro, ma infatti noi io tengo ma un messaggio bellissimo Leonardo Manera, invece ma Elisabetta Fosconi è ironico in, a Lisbona, insomma, a Lisbona, insomma. Non mi mandano a Lisbona, però bloccata. Ci fanno dei gesti strani. Al ritmo sempre più serrato, sì, le selezioni preolimpioniche in vista dell'ormai imminente Melbourne. Certo. È di scena a Stoccarda la più antica e nobile delle discipline sportive. Riduciamo così i nostri bambini. Ma della Germania occidentale. Ma si parlava di Svizzera, tra l'altro. Vinci Balzelli, Leo, forza. Ma sai che io adesso ho ricevuto anche i compiti che deve fare Beniamino. Non ho guardato se ci sono anche quelli di ginnastica. Presumo di no. Controllerò. Male. Controllerò. Io farei una segnalazione piccata al direttore della scuola. Vabbè, siamo tutti d'accordo. Siamo allora, tutti da d'accordo, oggi vabbè. Riunione di redazione e siamo anche una mezz'ora d'accordo di ginnastica. Fosconi a Lisbona. Ok. Guarda che c'è Anacleto che Anacleto, ma cosa vuole Anacleto? Buongiorno, cioè già c'è il coronavirus, già c'è il coronavirus. Parlo come la tua amica accanto Costi, senti, parla tutto Costi, così, tutto ma, capito? Ma non è vero, Anacleto, normale, Anacleto, è la sua voce. Ma parla un po' tutta così, capito? Ma così sembra che ho mangiato un limone, Anacleto, non parlo bravo così. Allora guarda, per la punta stavani sono qui da un mio amico che si lascia sotto il Mozambico. C'è lo bello, si è tirati fuori i limoni. Ora li porto da una mia amica a Sesto Fiorentino e mi fa la crema di limoncello, che non hai idea se come me la possa fare. Oltre al Mozambico, pure. Oh, sempre, sempre oltre il Mozambico. Visto ti mandai la mia socia, fece la pappa al pomodoro. Sì, venerdì. La pappa al pomodoro, oltre il Mozambico. Oltre il Mozambico, perché è difficile farla, capito? Sì, e è oggi complicato. Sono a lavorare con l'uomo più bugiardo. Lavorare. Se non è al pari di Leonardo lì, siamo lì. Siamo lì, siamo a fare questo giardino. Ha detto che ora comprate le forbici da pota che vanno da sé. Ora sono andato a potare 50 olivi. Una testa così, questo io, capito? Questo è matto come una fune. Grullo, perché qui ci vogliono grulli e basta, perché se no ce ne vuole. solo grulli dalle tue parti. Sì, ma guarda, mai dici più bugiardo del mondo, Leonardo neanche reagisce. No, qui, perché stavo guardando i compiti che deve fare mio figlio. Stavo guardando i compiti. Ti sei bloccato lì, Leo, su quello. Lui che ha valori alti, che ha detto quella tua amica. Questo è vero, sì. Del bere, quello del mangiare, sì, quello dei dolci. Ha un alto valore morale. Ha un alto, valore. Un alto valore morale. Alti valori morali. Anacleto, comunque non l'hanno ancora depenalizzati i superalcolici, fai da te. Ne abbiamo parlato di recente, ma è ancora illegale farli in casa. Ma io l'altro giorno gli dissi a Lorenzino, andai a una cena... Feci un giovedì grasso, di quelli veramente grassi, ma non nel mangiare, nel bere. Arrivai a casa, non so neanche come feci. Se andò a giocare a carte e disco la scopa, che so gioca anche discretamente, bevi sei grappe. Sul bere grasso? Perché poi mi fermarono, eccolo lì. No, poi mi fermarono. Sì? Poi mi fermai da Franceschino, qui alla chiesina, e bevi 3 bicchieri di vino. Sì. Poi arrivai a pranzo e bevi 2 aperitivi. Tutto per il come dire, uno sponsor sociale. Il questo nome del bere grasso. Siamo bene, a proposito di tutto questo. Noi siamo fatti così, hai capito? A proposito di tutto questo, caro Anacleto, sì, ma dimmi. La multa, la famosa celeberrima multa. Madonna, ora quando venga a Milano, ora posso venire a Milano, perché la mia dottoressa ha detto non andare a Milano per l'amor di Dio. Se vai a Milano te, pesti tutta la chiesina. Non andare, perché voi siete gli untori, non noi che se la 25.000 che se ne ha prato. Eccolo là. Non ce n'è uno. Untori. Dottore, Dio buono. Cioè tu se vedi un milanese adesso a chiesina che gli urli. Dai, senti, se andai in banca l'altro giorno al discorso della pensione, c'era 15 o 16 persone, entrai dentro, e vengo da Prato. Sono l'untore, l'andai a tocca a tutti. Via. No, ma se vedi che vorrei dire? Caccia un urlo untori ai milanesi, dai. Dagli all'untore, Dio buono. Fai bravo. Codesti mischeracci, codesti barbari. Vabbè. Ciao Anacleto. Ciao Anacleto. Arrivano questi messaggi. Credo di amare Elisabetta. Vabbè, è il momento di chiudere tutto. E vai a lavorare. Io vado a lavorare. Comunque credo, ha ancora dell'insicurezza. Credo, sì. E intanto io certifico che mio figlio non ha compiti di educazione fisica. Rimasto in fissa su sta storia dei compiti. Per esempio, deve occuparsi in monosillabi. monosillabi. Solita scuola italiana noiosa. Ricorda, cosa vuol dire si accentano solo i monosillabi che hanno due significati diversi anche se sono scritti nello stesso modo. Esempio, lì, avverbio di luogo con l'accento, sì. Lì, pronome personale. Ma scusa, la vecchia fiaba su lì e là, l'accento va su qui per e esempio, qua. In ogni frase va. Inserisci i monosillabi adatti. Per esempio, il giardiniere vide i ragazzi giocare a palla e lì con l'accento o senza accento richiamò. Senza accento, ovviamente. Senza, vogliamo, però che noia mortale. Vogliamo fare i compiti di Beniamino. Quindi. Ho molto freddo. Ho adesso molto freddo. Mi bevo un ottimo tè con l'accento o senza accento? No, il tè con in questo caso con l'accento. Il bravo, tè. Bravo, bravo. Puoi superare le elementari. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Fanne un paio ancora, Elisabetta Fusconi. Vediamo la se... mamma disse al figliuolo. Figliuolo, scritto sì, lì. Sì, figliuolo. Sì, sì. Per favore, posa. Ma che vecchio. Lì. Che linguaggio vecchio. Per favore, figliuolo, posa lì con l'accento o senza accento lo zaino. Posa. Lì con l'accento. Bravo, bravo. Perché bravo, è di luogo. Bravo, bravo. Beniamino, ascolta che così copi. L'ultimo. Allora, te l'ho detto tantissime volte, te va con l'accento o senza, te l'ho detto. No, ma dai, come con l'accento, una aberrazione. Ma guarda l'elementare. Vabbè, ma... Quinta, l'altro giorno Mattia mi ha scritto, papà, aspetto te perché i compiti non gli riesco a fare. Io, sei svenuto. Io ho detto, si dice un non malore. Lì. Riesco a fare, cioè non ho neanche risposto sì, torno per i compiti, si dice non lì. Allora io l'altro giorno mio figlio ha sbagliato un congiuntivo, gli ho detto Beniamino, fino a quando non impari i congiuntivi non ti parlo più, e lui mi ha detto va bene, gioco coi videogiochi. Tanto silenzio in famiglia. Vabbè, intanto abbiamo già fatto metà dei compiti di Beniamino. Restano quelli di ginnastica, voglio, Leo, esatto. Ti passo quelli della scuola tedesca. Voglio adesso, andando al traffico, mettere di ottimo umore Leonardo Manera. Figliuolo mi ha ricordato fluolo. Questa è la cosa che più lo rende non è vero. Isterico. No. Isterico. Comunque se un bambino di fronte a figliuolo si rifiuta di fare i compiti, ha ragione secondo me. Vabbè, dai, vai a lavorare. Vado a lavorare, torno a lavorare. Questa volta veramente. Veramente, andiamo nel traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Ecco qua, ci scrive, si qualifica così, il presidente nazionale dell'Associazione dei Laureati in Scienze Motorie Italiane. La nota della scuola tedesca è semplicemente delirante, ripetitiva, automatizzata, meccanica, prodroma all'artrosi precoce. Questo ci scrive, no, rido, c'è poco da ridere, ma insomma qua qualunque cosa dici i nostri ascoltatori sono pronti e ci... Quindi, cara Elisabetta Fusconi, non lo so, secondo il presidente del nazionale dell'Associazione dei Laureati in Scienze Motorie, straccia pure quella nota e quei compiti. Va bene, ma adesso è venuto a trovarci un signore, un nuovo ospite con noi, il signor Carlo Basalino, fatalista, leggo sulla scaletta che mi ha mandato la redazione, fatalista. Cosa buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono di Como e sono sì. Venuto qui oggi perché ho visto che a causa di questo coronavirus c'è tanta nevrosi in giro, sono un po' tutti preoccupati. Allora io penso che bisogna essere invece un po' fatalisti, prendere la vita come viene, e per dare un aiuto a tutti ho creato un sito che si chiama ilfatalista.com, perché sono di Como. Ilfatalista.com? Certo, perché sono di Como, di Venezia, chiamo punto ven, invece sono di Como, faccio punto com. Punto com. Com. Nel mio sito invito a prendere la vita in modo un po' più leggero, come faccio io che sono fatalista. Cioè, se una cosa deve succedere, succede. Poi bon, ci si organizza. Sono fatalista. Per esempio, le faccio un esempio. Ci sono molti uomini che hanno paura che la moglie li tradisca. Sì. Anch'io ho questa preoccupazione, però... Sono fatalista. Se deve succedere, succede. Allora mia moglie Maurizia l'ho portata in Svizzera in un locale scambi di coppia dove c'è anche la Dark Crew. Ho pensato, tanto se deve succedere. E vabbè, ho capito. Cioè, sì, lei proprio l'ha fatto. Infatti mi ha tradito. In quel caso. Con uno solo, con tanti uomini. Ma no, sono fatalista. Se deve succedere, succedeva lo stesso, anche se non la portava in club privé. Adesso i suoi amanti me li ritrovo anche a casa quando torno dal lavoro. Sono fatalista. È fatalista. Sarebbe successo lo stesso. Le faccio un altro esempio. Va bene, se ho Carlo. Mia figlia l'altro giorno aveva il mal di gola, ma voleva andare in piscina lo stesso. Ma aveva il mal di gola. Ma io sono. Sono un fatalista. Ehi. Ho detto, tanto succede quel che deve succedere. L'ho portata lo stesso in piscina. Adesso ha una febbre da cavallo. Ho capito, ma... Le tonsille che sembra che stia per scoppiare. C'ho delle placche più grandi dell'Australia. Però sono un fatalista. Magari anche senza la piscina sarebbe successo lo stesso. Quindi tanto vale. No? Mio cognato non sta mica tanto bene col cuore, un po' cardiopatico. La settimana scorsa è venuto a cena a casa mia. Io ho preparato una cena che era una bomba di colesterolo. Beh, insomma, perché c'era più colesterolo in quella cena che in 20 pranzi di matrimonio messi insieme. Appena ho finito la cena ho detto, andiamo a correre forte in città, così smaltiamo. Non l'avrà presa benissimo. Tanto se deve succedere qualcosa succede. E infatti, l'abbiamo ricoverato in ospedale. Ha avuto una crisi. Comunque sarebbe successo lo stesso. Sono un fatalista. Infatti in ospedale gli ho portato una bella torta alla panna, due sigarette. Pure, così se le fuma. Ultimo esempio. Mia cugina non sa nuotare. Ma è un dispiacere che ha da tutta la vita. L'estate scorsa ho preso un barchino per andare sul lago di Como. E un giorno è venuta anche lei con me. Quando eravamo in mezzo al lago, lei mi ha detto: certo che è proprio un peccato che io non sappia nuotare. Allora, sai cosa ho fatto? L'ho presa in braccio e l'ho buttata in mezzo al lago. Tanto sono un fatalista. Se deve annegare, annega lo stesso, no? Capito, bisogna essere un po' fatalisti nella vita. O ha bevuto più acqua lei di un ciclista quando fa il passo del Mortirolo. Era piena d'acqua. Si è salvata per miracolo. A volte vedi com'è il destino. A volte arriva quando neanche te l'aspetti. Era proprio lì in agguato mentre io la buttavo giù nel lago. Ma la vita è così, voglio dirlo a tutti quelli che sono preoccupati per il coronavirus. Viene come viene, bisogna essere fatalisti. E se volete consultate anche voi il mio sito, ilfatalista.com. Com. Ecco, cioè, Carlo avete appena Basari. Sentito un personaggio un che non farò mai più. Ma sicuro che lei non è un frontaliere più che abitante di Como? Perché gli abitanti di Como dicono che... Lei di che zona di Como esattamente? Como Monte Olimpino. Vabbè, perché... E quindi già prende un po' la parlata, un po' più ticinese. Sì, un po' più ticinese, ma Como in tanti parlano così già. Vanno avanti e indietro dalla Svizzera tutti i giorni, dai. Miriam Lucchetti scuote la mano, è una sfida Lucchetti. Sfida Lucchetti, a Como parlano così. Sì, è una sfida Lucchetti Como, un po' bizzarra. Sono tutti in questo modo, un po' parlano un po' strano. Como, Chiasso, ha messo insieme due città di due nazioni diverse. Però vabbè sono vicine, sono prossime. Signori, sono le 10:52 minuti. Siamo in anticipo, chiudiamo adesso. Allora, io mi ero tenuto... Canzone. Sì, c'è. Allora, devo dire una cosa. Tutti i giorni, attorno a quest'ora, c'è un ascoltatore, un'ascoltatrice che ci scrive vorrei ascoltare la canzone di Giordana Angi. Non lo so, è una nuova, quella che credo che è andata anche a Sanremo, ha vinto qualcosa dalla De Filippi. Lo so perfino io, che non vedo niente di queste cose. Ha vinto una roba dalla De Filippi, forse Amici, e poi è andata a Sanremo. Giordana Angi. È una roba che vuol dedicare alla mamma, non lo so. Mandiamone un pezzetto. Mandiamone un pezzetto, cioè perché ce lo chiede tutti i giorni, sconoscendo il fatto che siamo una radio nella quale non si. Però ce l'hai, Alpino, una di Giordana Angi, forse lui. Ultima di Sanremo, mettene una qualsiasi di Giordana Angi, così l'ascoltatrice, l'ascoltatore che ce la chiede tutti i giorni è questa. Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro, sicuro, sicuro il posto dove voglio stare. È sofferta come canzone. È sofferta. Però la stiamo anche un po' rovinando. Quindi la mandiamo in onda, ma rovinandola un po', parlandoci sopra. Senti un po'. Così. Stammi più vicino, stringimi più forte. Ah, beh, ma è questa. Bella questa canzone. Beh, ma infatti. ce la chiedono tutti i giorni a quest'ora, la stessa persona ce lo chiede più o meno, e allora almeno, visto che... È una canzone d'amore. Ecco, aprite i vostri cuori in questi giorni, accoppiatevi selvaggiamente nelle case. Sentendo fate Giordana l'amore Angie come non facevate più da anni. Siete obbligati a casa, fate l'amore selvaggiamente sui vostri materassi pieni di acari. Ecco. E fatelo sentendo in sottofondo questa bella canzone d'amore di Giordana Angie, così il nostro ascoltatore è contento, l'abbiamo fatto e basta. Vi salutiamo così con le ultime note di Giordana Angie. A domani. Basta un po' che cose, bene, io non vorrei mai, mai fare a meno di te, mai fare a meno di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro, sicuro, sicuro il posto dove voglio stare con te. Domani alle 9, domani mattina alle 9, no alle 10 a me! Uno, nessuno, nessuno